10. Al diavolo! Il vecchio ci ha mollato solo la legittima. A nessuno di noi era mai venuto in mente che potesse succedere, ma ora mi rendo conto che è anche ereditare una di quelle cose che bisogna prima avere imparato. Il telegramma è arrivato proprio quando avevamo deciso tutti insieme di accomodarci in terrazza. Sai, è ritornato Harry. Per mia fortuna, di fronte a una notizia cattiva io riesco sempre a dominarmi meglio che non di fronte a una buona. E poi qua fuori fa un tale caldo che non è proprio possibile abbandonarsi alle emozioni. Comunque sono rimasta sgradevolmente colpita dalla lettura del telegramma che ho subito passato a Lucas. Questi, nonostante il caldo, si è alzato di scatto dalla sedia e si è messo a camminare avanti e indietro come un leone inferocito. Sai, quasi quasi si è irritato con me perché i suoi consigli di immobilizzare il capitale si sono dimostrati una volta per tutte privi di senso e io non ho potuto esimermi dall'assumere, almeno su questo, un tono lievemente trionfante. Ma lui poi, nella sua infinita spudoratezza, ha detto addirittura che così stando le cose devo assolutamente fare in modo di ottenere un vitalizio per garantirmi almeno una certa sicurezza. No, mi fa schifo la sola parola. E Bauman ha sorriso. Lei lo sa, mio caro dottore, che io soffro di idiosincrasia per certe parole. La parola vitalizio mi rinvia a orifizio e quindi al mal di pancia, alla pancera, alla camomilla, alle vecchie zie. Insomma, c'è nella parola stessa qualcosa di assolutamente degradante. Questa sua idiosincrasia rientra perfettamente nel complesso del denaro. C'è da supporre che quando lei era piccola si sentisse in angustie e degradata quando la ficcavano in un letto con panciera e camomilla, magari sotto la sorveglianza di una vecchia zia. A causa di questo ricordo, lei sta compiendo delle associazioni di idee partendo dalla parola vitalizio, in quanto vuole respingere la vita squallida e angusta che grazie a una rendita vitalizia le verrebbe offerta. Lei comincia a persuadermi. E io, intervenne Lucas con rabbia, mi sento sempre meno indotto a fare propaganda per la sua dottrina. Io parlo da psichiatra, non da moralista. Beh, le sembra per caso che io faccia il moralista? E si azzuffarono per un po', già che né l'uno né l'altro voleva essere un moralista. Harry se la godeva in silenzio e quando quei due si furono sfogati, disse che a suo avviso era stata in effetti un'imprudenza lasciare il vecchio alla stazione per tutto quel tempo. Io allora ho dovuto replicare che il testamento era stato comunque redatto prima e che una maledizione postuma, per intensa che fosse, non avrebbe certo potuto modificarlo, e avendo ora appreso l'infamia di quell'uomo, non c'era più motivo alcuno di usare nei suoi confronti eccessivi riguardi. Tutto il nostro tatto era andato sprecato. Poi, ma senza intima convinzione, abbiamo preso in esame la possibilità che il testamento sia stato alla fine falsificato o scambiato con un altro, o che sia accaduta qualche altra cosa di questo genere. E tutti mi hanno consigliato di impugnarlo in ogni caso. Sarebbe un modo almeno di tenere impegnato il mio legale. Io comunque ci voglio pensare su. Poiché avevamo parlato tutti insieme animatamente, Balailov ha capito solo la metà dei nostri discorsi e anche quelli li ha travisati. Era infatti convintissimo che si trattasse di un evento molto lieto e ha proposto di festeggiarlo con un cicchetto. Così ci siamo alzati e arrivati in ufficio abbiamo bevuto alla mia legittima, al successo di Henry in Russia e all'avvenire in generale. Negli ultimi tempi Harry ha veramente dato l'avvio all'impresa del petrolio e mi ha detto in confidenza che è uno dei migliori affari che gli sia mai capitato di avere per le mani, a patto che vada in porto, come si può legittimamente supporre. Ha portato dalla Russia montagne di schizzi e documenti che insieme a Balailov sta ora esaminando con grande entusiasmo. In Russia ha lasciato il segretario, benché Balailov non fosse d'accordo, affidandogli l'incarico di sorvegliare il tutto e anche Gottfried è rimasto là per vigilare a sua volta sul segretario. Col passare del tempo l'ufficio ha assunto un aspetto familiare e molto gradevole per noi tutti. Qualche comoda sedia, il fiume della miniera d'oro sul suo nero piedistallo, da un lato dell'immane scrivania i bicchieri e le bottiglie per bere e un cicchetto, dall'altro Harry e Balailov chinati sulle loro carte. Nella nostra ovattata conversazione cadono ogni tanto i frammenti dei loro discorsi, ad esempio sulla distribuzione dei dividendi, sul conto dei profitti e delle perdite, sui fondi di riserva. Bauman mi sta studiando un po' per capire gli effetti provocati in me da quest'ultima notizia. Io sarei felice di potergli offrire del materiale interessante, ma posso dire soltanto che con mio stupore la cosa mi lascia piuttosto fredda. Tanto o poco che sia, questo denaro voglio vedere subito quanto ce n'è davvero. Forse per me la legittima sarebbe addirittura la soluzione migliore, perché di nuovo non basterebbe a impostare un programma di vita a lunga scadenza e renderebbe perciò del tutto insensato lambiccarsi il cervello in calcoli e conteggi. D'altro lato, ancora una volta è confermata la mia intuizione che lui, il denaro, non vuole più avere niente a che fare con me. I fatti parlano abbastanza chiaro. Prima un certo capitale è stato decurtato di un quarto, poi si è ridotto alla legittima. Che altro mai può succedere? Forse i rubli si trasformeranno in copechi e questi a loro volta in sabbia e sassi. E chissà che dalla sabbia e dai sassi non sia più facile per lei crearsi una base economica, ha detto Lucas sprezzante, già che c'è da augurarsi che in una simile situazione si risvegli miracolosamente e, come per assurdo, la sua volontà provi solo a pensare all'enorme quantità di donne e ragazze che sono seriamente impegnate nella vita professionale e devono pensare a guadagnarsi il pane anziché perdersi in astrusi ragionamenti sul perché non possiedono un patrimonio. La donna è innanzitutto moglie e madre, e questo è il suo vero mestiere, ho dichiarato con un tono non privo di pathos, ed io ho sempre fatto il possibile per svolgerlo bene. Mi sono sposata già 2 volte, ho un bambino dal primo matrimonio. Provvisoriamente l'ho sistemato da certi conoscenti nell'attesa di una schiarita nei miei rapporti con il denaro, ma tutto questo, naturalmente, lei non è disposto a riconoscerlo come un'opera socialmente meritoria e preferisce invece pensare a come darmi una mano affinché io possa trovare nella vita professionale un posto qualsiasi, per atroce che sia. Io nutro il massimo rispetto per le ragazze e le signore che nella vita provvedono a se stesse, benché ritenga che l'esservi costrette sia la prova di un deplorevole traviamento della divina provvidenza, ma lei è davvero la persona più ingiusta che mi sia mai capitata di incontrare, perché se no ammetterebbe che a modo mio il problema economico l'ho saputo risolvere. Pensi che non ho mai avuto un reddito fisso, né una professione sicura, che ho sempre svolto attività precarie dalle quali non ho mai ricavato granché, e tuttavia sono sopravvissuta per un buon numero di anni e forse anzi ho vissuto meglio e in maniera più gradevole di tante donne impegnate in una professione. Ma il risultato finale è stato però. Vabbè, questo può succedere a chiunque, il risultato finale è sempre nelle mani della provvidenza. Pensi soltanto al feroce speculatore? Secondo me il feroce speculatore era soltanto un imbroglione. Un pessimo imbroglione, però, ha detto Harry, intervenendo dall'altra parte della scrivania con un profondo sospiro. Le cose, se si fanno, bisogna farle bene. Lui ha solo approfondito il buco, accumulando debiti su debiti. Con i suoi creditori mi sono dato una gran pena per rimettere in sesto la fabbrica di cemento che era fallita, ma non c'è stato nulla da fare. Anche la vedova si è convinta ormai che il marito era davvero un inguaribile feroce speculatore. Ma perlomeno si sarà liberata dal suo complesso senza farsi analizzare, ho detto io con una punta di tacita invidia. È un complesso che tornerà, gentile signora, le assicuro che tornerà, ha replicato Bauman, fiducioso. Harry si è di nuovo immerso nella lettura delle sue carte ed io ho sperato invano che Lucas si fosse distratto dal suo argomento. Invece ha seguitato inesorabilmente. C'è una cosa che in effetti mi sembra di aver imparato dal dottor Bauman. Lei ha una capacità veramente straordinaria di rimuovere tutto ciò che non le va a genio. E adesso infatti si sta di nuovo sforzando, con frasi assolutamente generiche, di accantonare il risultato finale del suo comportamento economico, che, mi perdoni, è piuttosto curioso. Il risultato finale è stato appunto che lei, le chiedo nuovamente perdono, gentile signora, è raggiunta all'esaurimento di tutte le sue risorse economiche e non sapeva più dove sbattere la testa, se non fosse morto il vecchio signore. È morto però, e io vivo qui in maniera accettabilissima, anzi da molto tempo non provavo più la sensazione di un'esistenza così ben regolata. I miei creditori non sanno dove mi trovo, e siccome di mio non possiedo più neanche un mobile, nessuno può più togliermi nulla. Il professore non si azzarda a cacciarmi fuori di qui perché altrimenti è sicuro che i suoi crediti non gli verrebbero mai rimborsati. Al mattino mi portano il caffè a letto. Oh, questo sì che è essenziale, ha detto Lucas con amaro sarcasmo. È a dir poco importante. E quando un bel giorno la cruda realtà tornerà a ghermirla e il denaro della legittima sarà consumato, oh, per l'amor del cielo, lasci che prima quel denaro mi arrivi. Se lei continua coi suoi complessi economici, lo renderà refrattario del tutto. Bauman sorrise compiaciuto. L'altro giorno ha dovuto ammettere anche lui che in Lucas è presente quantomeno un'intensa costellazione. È proprio così, sono sicura che lei mi porta sfortuna col suo eterno pianificare. Chissà che non sia stato proprio lei ad aver pianificato il tutto in maniera tale da sottrarmi la somma originaria. Mi viene quasi voglia di ritenerla responsabile di quanto mi è accaduto. A questo punto Lucas si è sentito davvero un po' in colpa e si è limitato a brontolare qualcosa tra sé e sé. Seduti alla scrivania, Harry e Balailov continuavano a discutere, facendo rimbalzare su e giù cifre di grandezza immane che a starle a sentire davano quasi un senso di devozione. 11. Temo che dovremmo pazientare ancora per un bel po', come mi è stato scritto. L'eredità potrà essere liquidata solo gradualmente e ci sono ancora infinite formalità da espletare. Ah, oh, non mi interessa sapere di quali formalità si tratti e da chi debbano essere espletate. So solamente che bisogna aspettare. Anche qui stanno succedendo parecchie cose sulle quali noi non siamo del tutto consenzienti, ma è probabile che almeno in parte ce le siamo volute. Recentemente Balailov è arrivato in terrazza. Faceva ancora più caldo del solito quella mattina e ci ha invitati tutti ad accompagnarlo fino a N, che è un paesino di montagna qui nei pressi dove dovrà svolgersi il suo matrimonio. In città sarebbe stato assai più semplice, ma non si è lasciato persuadere in nessuna maniera. Darebbe troppo nell'occhio, secondo lui. C'è già il fatto che vive in una casa di cura, insomma, si tratta di un suo complesso. Ebbene, il sindaco di N lo aveva di nuovo mandato a chiamare per via di certi documenti e noi, conoscendo quelle spedizioni, le temevamo come la peste. Tra l'altro, giacché, come lui, conosciamo malissimo la lingua italiana, abbiamo sempre dovuto accompagnarlo tutti e quattro per integrarci a vicenda. Nota bene, il professore ha rinunciato ormai da tempo a inibire il nostro anelito alla libertà e ci lascia andare dove più ci aggrada. Io, perciò, accampando dei risibili pretesti, ho revocato il mandato al mio legale. Per raggiungere il paesino di montagna bisogna camminare in salita per un'ora abbondante e un'altra ce ne vuole di solito per stanare il sindaco dalla sua vigna e vederlo apparire con in mano la falce, e poi ancora mezz'ora prima che sua moglie abbia trovato la chiave dell'ufficio. Solo a quel punto comincia la trattativa, che richiede molta arguzia e presenza di spirito. I documenti scritti sono redatti in tutte le lingue possibili e immaginabili e passa da capo un tempo considerevole prima che si raggiunga l'accordo su quello che più o meno c'è scritto e sul suo significato e prima di capire a quali autorità o consolati bisogna ancora rivolgersi per lettera. La fidanzata di Balailov si è sempre rifiutata di accompagnarci e del resto la sua presenza sarebbe inutile perché è cresciuta a Lisbona e non sa altro che il portoghese. Insomma, quelle gite sono sempre state un supplizio. Un paio di volte, sia pur brontolando, abbiamo ceduto alle insistenze di Balailov, ma questa volta no. Con questa temperatura abbiamo detto di no e basta. Harry, che normalmente è un uomo d'azione, si è limitato a guardare in faccia Balailov con aria di rimprovero e poi, indicando il sole con un ampio gesto, gli ha risposto così: «È davvero troppo alto ormai!» Quindi, esausto, è crollato di nuovo nella sua poltrona. Bauman, volgendo lo sguardo da uno all'altro, ha dichiarato che anche lui, come medico, riteneva di dover dire che non era proprio il caso di muoversi. Balailov era fuori di sé, la cosa non poteva assolutamente essere rinviata. Noi alla fine ci siamo seccati e abbiamo seguitato per un po' a botta e risposta, ma ad un tratto si alzò in piedi il cosiddetto idiota tutto nero che stava leggendo i giornali a un tavolo vicino e da parecchio tempo ci stava guardando. Dopo aver sbattuto le mandibole un paio di volte per prepararsi, avvicinatosi a noi, prima si presentò e poi con grandissima gentilezza si offrì di accompagnare Balailov. Gli disse che aveva comunque una faccenda da sbrigare in quel paesino, dichiarazione certamente falsa, che parlava il russo e l'italiano e che sperava di potergli essere utile. Così si accordarono su tutto, cosa che in Balailov ci dispiacque, ma anche lui ce l'aveva con noi. Infatti, nel congedarsi fu piuttosto scortese e subito se ne andò con quell'uomo tutto nero. Tornarono solo nel tardo pomeriggio. L'idiota tutto nero, che già da tempo aspirava a conoscerci, apparve felicissimo che finalmente il ghiaccio si fosse rotto e noi invece per questa sua idea lo giudicammo uno sfacciato. Si avvicinò subito al nostro tavolo con l'intenzione di attaccare discorso, ma Henry, di nuovo indicando il sole, gli disse con freddezza: "Più tardi, quando sarà tramontato." Allora lui ci guardò in faccia uno dopo l'altro, con la sua solita aria da imbecille, e sicuramente sarebbe seguita una scena imbarazzante se Balailov non lo avesse portato via con sé. Noi non ci sentivamo per niente in colpa, c'era stato richiesto uno sforzo sovrumano al quale ci eravamo sottratti. Per questo non capivamo bene perché mai Balailov ci serbasse in effetti tanto rancore. Non si fece più vedere per tutta la sera e la nostra bella intimità è stata da allora notevolmente turbata. Immagina dunque il nostro orrore quando, dopo un paio di giorni, Balailov ci ha presentato quell'individuo come il suo segretario privato. Sicché da quel giorno, nelle ore più fresche, in quelle più calde gliene manca il coraggio, egli ci molesta con la sua compagnia. Anziché sistemarsi al suo posto abituale, da quella distanza di sicurezza gli rappresentava per noi un oggetto di divertimento, ora si siede al nostro tavolo, guarda stralunato ora l'uno, ora l'altro, trova interessantissimo tutto quello che diciamo e sbatte le mandibole ogni volta che vuole interloquire. E questo sarebbe ancora il meno, anche se ne soffriamo molto. La cosa che veramente temiamo di più è che egli influenzi il suo nuovo capo negli affari, dato che si dimostra così competente in ogni campo. Ultimamente ha detto che se ne intende anche di petrolio e che tenta di mischiarsi in tutto, anche, come dicevo, nell'affare del petrolio. Su questo tema lui e Harry si sono violentemente accapigliati, già più di una volta. Insomma, recita in commedia la parte dell'intrigante e Balailov quella del principe bonario ma debole di carattere che si fa sempre influenzare dalle persone sbagliate. Che tipo di uomo sia in realtà l'idiota e che mestiere faccia non lo sappiamo neppure vagamente e men che meno quali siano i motivi per cui si fa curare in questo posto. Forse è soltanto per la sua imbecillità e per perdere l'abitudine di sbattere le mandibole. Bauman lo osserva con grandissima attenzione, ma anche lui non riesce a cavarne nulla. Con mio sollievo, comunque, il suo zelo scientifico si è piuttosto attenuato ed io gli ho chiesto il favore di risparmiarmi per un certo periodo. Il complesso del denaro non mi tormenta più come prima, da quando sento di nuovo che i soldi sono nell'aria, purtroppo per ora soltanto nell'aria. Ed essendo riuscita quantomeno a raggiungere uno stato di benefica apatia, sono convinta che continuare a scavare e indagare può tutt'al più provocare una recidiva. Quanto a Harry ultimamente si è messo a contare con una tale intensità che davvero per lui non c'è più niente da fare. Ho completamente dimenticato di ringraziarti per la tua lettera. Sono d'accordo che bisogna far festa quando è il santo. Sarebbe un'amara consolazione che pure, a quanto pare, mi sarà negata. Date le circostanze, è quasi sicuro che non andrò più in Thailandia. E tanto meno, perciò, potrò portarvi tutti con me. Andrò invece a Monte Carlo, forse. Bisogna pur trovare un modo per riportare la legittima alle sue dimensioni iniziali. Ho anche proposto a Harry di venire con me, ma lui suggerisce di aspettare e di andarci soltanto se la situazione precipita. Io penso invece che sia meglio andare fin tanto che c'è ancora qualche cosa. Siamo molto preoccupati per Balailov. Per vari giorni non è stato in ufficio, ma lo stesso la sera tornava a casa tutto contento. È chiaro che si è legato a doppio filo con il nero, dal quale si è lasciato completamente abbindolare. Devi sapere che molto, per Harry, o forse tutto, dipende dal fatto che Balailov rimanga qui fino a quando l'affare del petrolio sarà messo a punto in tutti i dettagli. Degli uomini come Balailov, quando sono lontani, non c'è molto da fidarsi. Anche Bauman e Lucas sono già stati registrati come azionisti, e chissà che in seguito non decida anch'io di essere della partita. È dunque nell'interesse di tutti che Balailov sia trattenuto qui il più a lungo possibile, ma la sua fidanzata non vede l'ora di andarsene perché la sua permanenza in questo luogo le è odiosa, soprattutto in nostra compagnia. Proprio per questo noi ci siamo sempre adoperati affinché non precipitino i tempi di queste nozze e più volte abbiamo indotto Balailov a temporeggiare e a non irritare le autorità competenti. In parte del resto l'abbiamo fatto per pura amicizia, giacché questo matrimonio si profila di una infelicità davvero micidiale. Il suo caro segretario privato, invece, vede le cose e le interpreta in tutt'altra maniera e fa il possibile per accelerare le nozze. È un'altra prova evidente della sua idiozia, perché c'è da supporre che in linea di massima la sua funzione sarà con ciò esaurita. Pensa che l'altro giorno gli è venuta l'infelice idea che la coppia dovrebbe farsi naturalizzare in questo paese, perché così verrebbe risolta nella maniera più semplice l'incresciosa questione della cittadinanza. Lucas, che in questo campo ha una certa esperienza, ha detto che anche in quel caso gli interessati devono esibire un attestato della propria nazionalità. Ma l'idiota, con un sorriso un po' più furbo del solito, ha così replicato: Dio ce ne guardi, basta una dichiarazione scritta. E ha aggiunto che lui lo sa bene come vanno trattati i funzionari da queste parti e che di sicuro si metterà d'accordo con loro. E infatti, su un cavallo che ha preso in affitto, scorrazza su e giù per la campagna. Tratta con le autorità e, a quanto pare, corrompe gli impiegati, oppure se ne sta seduto con Balailo a fare digere lettere e petizioni di cui noi non veniamo più nemmeno informati. Anche la fidanzata adesso viene più spesso in terrazza e noi ci sforziamo di abituarci alla sua presenza. Balailov, al solo pensiero che la sua meta si sta avvicinando, è raggiante di gioia e ogni tanto l'idiota prova a raccontare qualche episodio della sua stentata gioventù, trovando però in noi un uditorio poco attento. Allora ammutolisce e, sbarrando gli occhi, guarda sbigottito nel suo piatto oppure li alza sulla sua nuova padrona, che lo tratta con una certa bonomia. 12. Già i primi d'agosto, Dio mio, da quanto tempo ormai mi trovo in questo posto. Tra poco non riuscirò neanche a immaginare una forma diversa di esistenza e il giorno in cui me ne andrò non saprò come fare per riabituarmi alla vita di una volta. E chissà per quanto tempo ancora le cose andranno avanti così. Neanche di questo riesco a farmi un'idea. Continuamente mi tocca mandare avanti Bauman con l'incarico di placare il professore. Ancora l'altro giorno, questi si è sfogato con lui e gli ha detto che semplicemente non tollera più che la casa di cura sia messa a soqquadro in questo modo. Secondo lui nessuno di noi in fondo è un vero paziente. Harry arriva soltanto all'ora dei pasti, come fosse un turista. Balailov non fa altro che ubriacarsi nonostante la terapia dell'astinenza. Noi, e questo è chiaro, gli reggiamo il sacco. Io fin dall'inizio gli avrei fatto un'impressione assai dubbia, per esempio quella storia con Gottfried. Insomma, è preoccupato che gli screditiamo la clinica. Per un motivo o per l'altro, tuttavia, egli desidera che tutti noi rimaniamo qui. Ha un forte interesse personale alle speculazioni immobiliari di Harry. Balailov, con tutte le stanze che occupa, i padiglioni speciali e tanta gente a suo seguito, gli porta in cassa una barca di quattrini. Quanto a me, deve appunto aspettare che arrivi il denaro. Soltanto Lucas è un uomo d'onore dalla testa ai piedi, così ha detto, ed è una cosa addirittura inconcepibile che abbia rapporti esclusivamente con noi. A Bauman allora è venuta una buona idea, e cioè gli ha consigliato di tenere il nostro gruppo un po' isolato dai pazienti normali. Così ci hanno fatto traslocare in un'ala appartata dell'edificio, il che ha certo moltissimi vantaggi. Su nostra preghiera, Bauman ha fatto di tutto per tramare contro l'idiota, ma non c'è stato verso. A causa del suo comportamento da perfetto ma educatissimo imbecille, quell'individuo è entrato nelle grazie del professore, il quale anche lui, contrariamente a quanto pensiamo tutti quanti noi, lo avrebbe definito un uomo d'onore. Ma almeno si è ottenuto che egli sia rimasto nella sua stanza e non ci abbia seguito nell'ala separata. È troppo in buoni rapporti col professore e di sicuro ci avrebbe spiato in continuazione. Al posto dell'idiota, ho adesso come vicino di stanza quel buon uomo del vecchio prete al seguito di Balailov. La nostra ala ha un'uscita da cui si raggiunge la strada attraverso un cortile poco frequentato. Poter andare fuori con calma, senza doversi guardare intorno come collegiali sotto controllo, è già una vera benedizione. Col tempo si sono creati interessi privati di vario tipo, che finora avevamo potuto coltivare solo con grandi difficoltà, ma che adesso, proprio per questo, curiamo con fervore. Bauman, in quanto medico, è stato incaricato di esercitare su di noi una certa sorveglianza, ma poiché egli stesso ha un'amichetta in città, è piuttosto malleabile. Anche Harry ed io ci siamo fatti degli amici tra gli attori della compagnia teatrale estiva. Non c'è altro da queste parti. Siamo molto prudenti, ci teniamo alla fama della clinica e al nostro buon nome, e di questo, secondo me, la gente dovrebbe darci atto, anziché guardarci storto come fanno in molti. Peccato, Maria, che tu non sia qui, anche se, scusa il mio egoismo e cerca di capirmi, godo di notevoli vantaggi essere l'unica donna in un gruppo di uomini, sicché in realtà non mi andrebbe di dividerli con altri. Non fraintendermi, ti prego. Nei suscitati interessi privati è implicito il fatto che la nostra vita familiare rimanga intatta. E proprio per questo si è creata un'atmosfera simpatica e assai ricca di sfumature. Lucas è in certo modo un socio tacito, in quanto, essendo il suo un matrimonio felicissimo e piuttosto recente, la pensa su questo tema come sulla base economica. Quindi non solo non è malleabile, ma è addirittura intrattabile, già che chiaramente i nostri interessi privati, tra virgolette, quello di Harry e il mio, non gli vanno per niente a genio. Per quel che riguarda il mio, ti dirò, Maria, che qui possiamo scegliere soltanto tra i membri della compagnia teatrale che staziona in città un paio di mesi. Insomma, devo ammettere con vergogna che si tratta di un tenore. Ha una voce che a malapena lo legittima in questo ruolo e mi invia le sue comunicazioni scritte su una rozza carta da lettere marmorizzata. Solo talvolta usa una carta diversa, tra il blu e l'azzurro, con sovrimpresso un cigno bianco. Forse sarà grave, ma non posso farci niente. C'è in questo per me qualcosa di commovente e lui, tra l'altro, è veramente quello che si dice un bravo ragazzo. Con gran dispetto degli amici che non lo apprezzano affatto, le sue maniere sono del tutto ineccepibili. Ed è proprio sulla scena che ha imparato come ci si comporta con la gente della buona società, già che per carenza di personale recita anche la parte dell'uomo di mondo nelle commedie moderne. Harry, che si trova nel mio stesso dannato impiccio con la giovane eroina della compagnia teatrale, riesce ancora a comprendermi, ma non ti dico le occhiate che mi lancia il nostro libero docente quando il mio lui compare di persona. Oppure la mattina a colazione mi ritrovo accanto al piatto uno di quei suoi biglietti con il cigno bianco. Di buon grado e senza far storie, sono la prima ad ammettere che la mia è una forma di perversione, ma questo irrita Lucas anche di più. E addirittura, con cieco fervore, si adopera con ogni mezzo affinché io desista. E così l'altro giorno mi ha detto che, come follia giovanile, una cosa simile potrebbe ancora aver senso, ma per una signora. Silenzio imbarazzato. Che dopo tutto questo stadio dovrebbe averlo superato. Alle sue parole ho potuto ribattere solamente che è vero, non sono più giovane, ma ritengo mille volte più importante assaporare la terza, la quarta, la quinta giovinezza, anziché la prima e la seconda. Un po' disarmato, Lucas si è vergognato a posteriori di aver detto una frase così indiscreta, che tra l'altro non ha sortito il minimo effetto. Naturalmente anche Lucas ha il solito complesso dell'età. Quando si supera un certo limite, bisogna essere previdenti, assicurarsi un vitalizio, diventare più costanti nelle proprie inclinazioni. Secondo me quello che dice è tutto sbagliato. E anzi, nell'invecchiare vedo un unico vantaggio, che man mano il futuro perde interesse e l'attimo presente acquista un'importanza sempre maggiore. Fintanto che esistono dei tenori di una qualche compagnia teatrale estiva che mi mandano dei bigliettini azzurro cielo, non vedo perché mai dovrei rinunciarci. Comunque non mi dispiace affatto se qualcuno mi irrita con le sue prediche, dandomi l'occasione di irritarlo a mia volta. Maggiore comprensione dimostra per me il vecchio prete russo, sai, recentemente ci siamo scontrati in corridoio in un momento un po' critico. Dopo lui si è messo a sedere al chiaro di luna sul suo balcone e quando io sono uscita sul mio, e ci siamo scambiati il nostro consueto saluto, tutto sommato ero un po' imbarazzata e cercavo una frase che allentasse la tensione. Nel frattempo abbiamo imparato a comprenderci meglio. Però mi è venuto in mente solo questo: Pater peccavi, padre, ho peccato. Al che lui ha sorriso dolcemente e con espressione lieta mi ha risposto con un te absolvo, seguito da qualche altra parola che non ho capito in latino. Dio mio, Maria, non posso proprio fare a meno di tornarci su, benché questo pensiero mi ossessioni e anzi mi abbatta. Ma pensa come la vita potrebbe essere bella se non ci fosse il problema del denaro. Com'è possibile che la gente coi soldi sia veramente infelice? Un certo grado di comfort, poche persone simpatiche, un pizzico di follia, per esempio una storiella d'amore senza troppe pretese, il chiaro di luna è un vecchio prete bonario, ti assicuro, Maria. Basterebbero queste poche cose per farmi di nuovo innamorare della vita, se solo. non si ergesse sullo sfondo come una nera bandiera il pensiero incessante del denaro. A prescindere dal fatto che io riesca o meno a entrare in possesso della legittima, è sicuro che prima o poi verrà il momento in cui di nuovo comincerò a contare o a rimuginare su queste cose e allora il complesso tornerà a ottenebrarmi. Io faccio davvero del mio meglio per vivere il presente come una vacanza. Proprio così, infatti, passavamo da bambini le vacanze estive come una continua festa. Eppure, malgrado ci sembrassero interminabili, non riuscivamo a liberarci del tutto di quei fantasmi che erano per noi gli insegnanti, le lezioni scolastiche, i compiti assegnati per punizione. Ah, è una cosa, sapevamo benissimo, l'inferno che ci stava davanti era identico a quello che ci spiava da dietro, e perciò era inutile provare a scansarlo. No, no, mi dicevo, non c'è niente da fare. A scuola prima o poi bisognerà che ci torni. E siccome non riesco a ficcarmi in testa la lezione di aritmetica, di nuovo, per castigo, dovrò restarci più degli altri. Adesso mi appare altamente simbolico il fatto che sempre quando ero ragazzina, dopo ogni compito di aritmetica, mi toccava per castigo rimanere in classe più a lungo degli altri. E ammesso che il compito l'avessi fatto giusto, o lo avevo copiato e allora la punizione era ancora più grave, o si trattava di una pura coincidenza a cui nessuno era disposto a dare il minimo peso. Sapessi come una cosa simile può rovinare il carattere. Insomma, in questi casi ci si consola soltanto al pensiero che anche l'insegnante è costretto dalla sua stessa infamia a rimanere a scuola e a perdere il pomeriggio libero. E anche in seguito, sapessi, per natura avevo un ottimo carattere, proprio simpatico, ma talmente patito per i rovesci pecuniari. Non c'è nefandezza al mondo che non commetterei con gioia se mi fruttasse del denaro. Ma il fatto è che mancano le occasioni, in realtà. Le nefandezze che rendono si leggono soltanto nei romanzi. O almeno per le occasioni che finora mi si sono presentate, non valeva proprio la pena di sforzarsi troppo. Tanto per fare un esempio, mi è capitata una volta l'opportunità di svignarmela con 20.000 marchi di una certa persona. Ma quei 3 giorni che ho tenuto il denaro in custodia sono già stati per me un vero supplizio. Non sapevo fin dove sarei potuta arrivare con quel gruzzolo, perché tanto prima o poi comunque sarei dovuta ritornare indietro. Se fossero stati 100.000, la forza morale di scappare l'avrei magari trovata. Preferisco non addentrarmi ulteriormente in questo argomento. Ieri, durante una cenetta offertaci da Harry, abbiamo alzato un po' il gomito e oggi ho mal di testa. Così ogni sorta di brutti ricordi attraversano la mia mente. Basta, è meglio che smetta.